24 di Giovanni Minoli. Musica e storie negli anni 60 e 70. Bentrovati su Mix 24 Estate. Anche oggi parliamo di storia e musica. Siamo nel 1962 con Marina Milone e Franco Schipani, che è stato imparando a conoscere, è un autore, produttore di programmi musicali dagli Stati Uniti per oltre 30 anni e fondatore della versione italiana di Rolling Stone Magazine. Franco, buongiorno. Come inizia questo 62? Protagonista assoluto di questo 1962 è un nuovo ritmo che fa più o meno così. Come on, let's twist again. Qui stiamo ballando il twist. Buongiorno, ma come nasce questo ritmo straordinario? Buongiorno Marina, come nasce questo ritmo straordinario? C'è un tale Hank Ballard, un rockettaro statunitense che pubblica un 45 giri. Lui nella facciata B mette una canzone che si chiama The Twist, perché non ci credeva molto in questo pezzo. Invece un tale Chubby Checker sente questo disco, sente la facciata B e dice: ma questa è una cosa meravigliosa. Chubby Checker, Chubby Grassottello? Sì, in slang americano, grassottello. Ma era di colore? Sì, sì, lui era di colore, ma la cosa simpatica, se tu guardi i video di Chubby Checker, allora o trovi lui da solo in studio che sta twistando e cantando senza pubblico, oppure vedi del pubblico completamente bianco, senza lui nero, che sta ballando, perché diciamocelo, il twist, che è nato da uno di colore, è stato rubato letteralmente dai bianchi, che hanno fatto una cosa propria. E i bianchi italiani lo ballavano? Beh, credo proprio di sì. A Saint-Tropez la luna si resta con te e balla il twist contando le stelle nel cielo. Ma la stella più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Ma la stella più bella non è in cielo, qui vicino a me, a Saint-Tropez. È sempre un Peppino di Capri che canta. E nel 1962 gli italiani avevano ragione a divertirsi, a ballare, perché quello è l'anno migliore del boom economico. Il PIL cresce dell'8%, wow. Cioè neanche la Cina oggi, non so se mi spiego. Sì, ti spieghi, però guarda, in Cina nel 1962 il twist proprio non era ancora nato, perché sai che c'è? Che i nostri cantanti, fra l'altro, nel 1962, tutti quelli che stanno facendo altre cose, mollano tutto e fanno soltanto twist. You better come home, Speedy Gonzales. Why don't you come home, Speedy Gonzales? How come you leave me all alone? Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Renato, questa la cantavo anch'io. E si balla il twist e nel frattempo nascono molti bambini. Nel 1962 nascono circa un milione di bambini. No, questo circa un milione di bambini non funziona. Tu mi devi dare dei dati precisi, Marina, per cortesia. Va bene, ok. 937.257 bambini. Ah, contento? Contentissimo, grazie. Picco che non si raggiungeva dal 1932. E se vogliamo fare un confronto con oggi, nel 2012 sono nati 527.779 bambini. Che non sono pochi, eh? 400.000 in meno, giusto così. E gli italiani comunque continuano a viaggiare nord-sud anche perché finiscono i lavori nel tratto della Roma-Napoli dell'autostrada del Sole, che poi non so se ci ha fatto caso, ma è il tratto più bello dell'autostrada. In assoluto, io lo adoro. Quando esci da Roma, io vado a Napoli, luce che ti io vado onda. A Napoli soltanto per poter andare sull'autostrada del Sole, guarda. E poi a nord invece termina la costruzione del traforo del Monte Bianco, dove finalmente gli operai dell'una e dell'altra parte si incontrano, si danno la mano. E a Milano invece si fanno le prime prove delle vetture della linea 1 della famosa metropolitana. Sempre nel 62 si estende l'obbligo di andare a scuola fino all'età di 14 anni e arriva una riforma, la riforma della scuola Fanfani. Nasce la scuola media, unica e gratuita, e i libri degli elementari vengono distribuiti gratuitamente. Ma che bello, i libri gratis? Esattamente. Fantastico. È l'anno della riforma della scuola di Fanfani, ma di questo piccolo grande uomo nato ad Arezzo ne parleremo ancora. C'è una novità nella moda. Per quanto siamo ancora agli inizi dello sviluppo delle grandi case di moda, nel 1962 nasce la Camera Nazionale della Moda. Anche se era quello ancora il tempo in cui per comprare un vestito andavi dalla sarta. Guarda, non me ne parlare da me, perché guarda, in quel periodo mia madre cuciva per le sorelle Fontana e la moda ce l'avevo dentro casa dalla mattina alla sera, guarda. Ma va, cioè, per andare a ballare il twist, tu il vestito già fatto ce l'avevi, fatto da tua madre, fatto dalla sarta. Dalla sarta. Comunque, guarda, adesso dato che sei napoletana, ti faccio sentire qualcosa che ti farà veramente inorridire. Aiuto. If you should ever go to sunny Italy, you'll find your paisans there are singing this. Facimma la twist. Stop. Cioè, capisco l'epidemia, però questo mi sembra un oltraggio al pudore. O sole mio fatto come un twist. Hai capito, sì, a che livello siamo arrivati. Comunque, guarda, che nel 1962 hanno twistato tutti, anche quelli che non ne avevano proprio bisogno. Vieni a ballare il peppermint twist. Questa è proprio la danza del peppermint twist. Si balla così il peppermint twist. Su e giù, giù. È sempre lui, Celentano, che si conferma talento assoluto anche quest'anno. Sì, assolutamente, però guarda che nel 1962 lui non aveva proprio bisogno, come ho detto, di twistare, come si dice in gergo, perché pensa che in quell'anno lui ha piazzato ben 7,45 giri nella classifica dei 100 dischi più venduti dell'anno. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. La mezzaluna splende in cielo, romantica. La mezzaluna canta in cielo, fantastica per noi. Io che ho pianto per te, pregandoti di stare con me, mi pento perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò stai lontana da me. Non ti voglio perché non ti voglio così. Vabbè, Celentano forever. Celentano forever. Vabbè, mentre Celentano molleggiava, Amintore Fanfani, di cui ti avevo accennato prima, primeggiava, perché forse il 1962 è proprio il suo anno. Professore di economia alla Cattolica di Milano, va al governo e non si ferma un minuto, ma soprattutto fa le riforme. Le riforme, capito? Le riforme. Quelle di cui tutti parlano, ma che nessuno fa. Lui le va al governo e le fa. Scuola, energia elettrica. È il suo quarto governo, ma è il primo con l'appoggio parlamentare esterno dei socialisti, cioè è una vera rivoluzione per quel momento storico. Ecco, socialisti... perché forse riesce a fare le riforme allora. Esattamente, ma anche perché regista assoluto, bisogna dirlo, dare il merito, Aldo Moro, segretario del Partito della Democrazia Cristiana, che lo aiuta in questo programma del 1962. E sai quante ore parla Moro al Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana a Napoli? Non ne ho la più pallida idea. 7 ore. 7 ore, cioè tu si è fatto 3 Sanremo di seguito, mi stai dicendo? Cioè, una diretta di 7 ore. Diciamo, li ha presi per sfinimento, alla fine hanno e non ha mai appoggiato smesso, il governo. Mai smesso, questo 7 ore di seguito. 7 ore. Wow, un record assoluto. Cambia il Presidente della Repubblica, viene eletto al Quirinale Antonio Segni. E soprattutto si apre nella capitale il Concilio Vaticano II. Anche questo Papa, Papa Giovanni XXIII, Papa Roncalli, arrivato sul trono pontificio, in effetti a lui non gli avevano dato tanto credito, il Papa contadino, vabbè, insomma, così. Invece arriva là e in 5 anni rivoluziona la Chiesa. E la sera dell'11 ottobre 1962, acclamato anche dai fedeli, si affaccia al balcone a Piazza San Pietro e pronuncia un discorso storico quasi poetico. Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio, tutto, tutto. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Beh, un discorso davvero storico. Un discorso epocale, guarda, come quello di Martin Luther King, ci sono, sì, cose che veramente ti ricordano le cose restano belle della vita. E in quell'anno, dopo 5-6 anni di relativa pace sociale, gli operai iniziano a chiedere nuovi diritti, chiedono la riduzione dell'orario lavorativo da 44 a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni e non su 6. Anche perché in quel momento gli italiani volevano anche un po' divertirsi, diciamo. Esattamente, cioè, no, diciamo così. Comunque è l'anno di un grande sciopero degli operai della Fiat. Davanti ai cancelli di Mirafiori succede un casino, vengono fermate oltre 1000 persone, la Fiat ne licenzia 88, insomma un mega sciopero. Mix 24. Musica e storia negli anni 60 e 70. I miei sorrisi e i tuoi si sono spenti. Noi camminiamo insieme, siamo soli. Ci restano soltanto lunghi silenzi che vogliono dire addio. Addio, il nostro amore. Mamma mia, proprio un'altra musica. Eh sì, questa era Addio Addio di Domenico Modugno, con la quale lui ha vinto il festival. Lui è il vincitore, però il vincitore morale del festival, perché ce n'è sempre quasi uno, è questo. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando, l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai. fino a quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi vincitore, sì, questo sì, vincitore morale, come avete detto prima. L'hanno cantato veramente tutti questo pezzo, l'hanno cantato, guarda, da Pat Boone a Michael Bublé. E guarda, è tanto famoso questo brano che sono riusciti addirittura a inserirlo in uno dei film cult rock degli anni 80, che è The Blues Brothers. E come hanno fatto? Beh, come hanno fatto? Guarda, il film è stato girato a Chicago nel 1980 ed è costato 30 milioni di dollari. Guarda che a Chicago... Una cosa, cioè è l'avatar di oggi, capito? Cioè a livello... Comunque, a Chicago ci sono moltissimi italiani fin dagli anni 30. E ormai questi italiani sono quelli che, diciamo, hanno, predominano non soltanto nella cultura, nella politica, nel commercio, nella finanza, eccetera. Quindi hanno un po' in mano. Che cosa hanno fatto? Dice, potete fare questo film, che cosa vi serve? I produttori americani gli dicono, beh, dobbiamo venire qui, distruggere un parco pubblico, degli edifici del governo, mandare a fuoco, insomma, poi abbiamo 250 macchine con incidenti vari. Dice, ma dice, va bene, ok, noi vi aiutiamo. Dice, però ci potete fare una piccola cortesia? Volete mettere un pezzo di un nostro amico italiano in questa colonna del film rock? Ed ecco che cosa si sono inventati. Una trattativa proprio. Dime quando tu verrai. Dime quando. Di un giorno l'ora in qui. Forse te mi bacerai. Ogni istante tenderò. Sì, ma torniamo al festival. Franco. Sì, torniamo al festival. Guarda, il festival in quel momento aveva perso proprio ogni contatto con la realtà, con quello che stava avvenendo proprio nella società. Beh, perché, guarda, non si accorgono né la TV né proprio l'organizzatore del festival che la musica era proprio cambiata, proprio la musica nel senso che era cambiata proprio la società. Infatti, sì, Sanremo... però aspetta, lo sai che quell'anno la TV è la prima TV a colori, cioè le trasmissioni vanno finalmente a colori quell'anno. Finalmente a colori, però guarda, queste canzoni che stiamo sentendo sono in bianco e nero. Oh santa pace, Franco, no, questa musica fa ridere, no, c'è un flop pazzesco. Ma la cosa divertente è che proprio che io stavo guardando in regia, vedevo la gente che stava ridendo. Non dico che è una cosa comica, perché dobbiamo avere il rispetto di questi grossissimi artisti, però dicevo, è proprio una musica in bianco e nero. È proprio un flop questo festival, quindi. È un flop perché Ezio Radaelli, il famoso super manager che era stato chiamato per organizzare un Sanremo diverso, lui se ne va perché in quel momento che cosa sta organizzando? Il Cantagiro estivo. Che cos'è il Cantagiro? Guarda, il Cantagiro è una specie di, chiamiamolo, Giro d'Italia ciclistico, proprio con le tappe, capito? Quindi praticamente loro da fine giugno a fine luglio, si fermano in varie città, cioè, dove loro cantano dal vivo, ogni sera c'è la maglia rosa e poi alla fine del Cantagiro si fa il grande concerto ripreso dalla televisione, questa volta a colori come dicevi tu, e si elegge il vincitore di quell'anno. Vabbè, quindi ovvio, cioè il Cantagiro supera il festival. Sì, lo supera alla grande. Guarda un po' cosa stavano facendo invece i nostri cantanti sulle spiagge italiane quell'anno. Quando la tante sol, aquí en la playa. song for me, it brings back memories of days that I once knew. Vabbè, proprio un'altra musica, è il caso di dirlo. Sì, sì, assolutamente. Hai visto che... Chi erano, lo vogliamo dire? Ma come erano i Marcellos Ferial, c'era poi Joe Damiano con Criolla e Don't Play That Song con Ben E. King. Comunque, per i discografici non è stata l'ultima cantonata dell'anno, eh? Cioè, vuoi dire che ne hanno prese altre? In giro per il mondo? Sì, sì, proprio planetario, guarda. A proposito di mondo, ti voglio raccontare alcune notizie dal mondo nel 1962, ma dopo la pubblicità. Let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when we really hung? Yeah, let's twist again, Christmas time is here. Musica e storie negli anni 60 e 70. Ben trovati su Mix 24 Estate, sono Marina Milone e con Franco Schipani stiamo facendo un viaggio nella storia attraverso la musica e oggi ci occupiamo del 1962. Franco, ti stavo dando un po' di notizie dal mondo per quell'anno. Ecco, all'aeroporto di Capodichino a Napoli muore il boss della mafia Lucky Luciano. Lui stava andando in Italia perché stava per incontrare un produttore cinematografico per fare un film sulla sua vita, muore di infarto. Peccato, perché secondo me ne avremmo veramente saputo delle belle. Ne avevamo già viste, vabbè. In Algeria si svolge il referendum per l'indipendenza del paese dalla Francia, finalmente. E poi nei due anni precedenti avevamo raccontato le vicende della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Ecco, questo forse è l'anno di massima tensione. Siamo arrivati alla resa dei conti. Sì, proprio verso la fine dell'anno ci sono 13 giorni in cui il mondo intero vive l'incubo dello scoppio della guerra nucleare dopo che vengono installati dei missili nell'isola di Cuba. Insomma, 13 giorni così di paura sulla fine, in chiusura d'anno. E mi dicevi invece del festival, che i discografici praticamente non ne prendono una nel panorama musicale, almeno quelli che portano avanti Sanremo. Guarda, come gli americani hanno sottovalutato Cuba, nel 1962 gli italiani hanno sottovalutato i loro cugini francesi. Brigitte Bardot, Bardot. Che questo è un grande successo dell'estate. È un grande successo dell'estate, però che cosa hanno fatto i francesi furbi? Hanno preso Brigitte Bardot, questa biondazza della quale tutti bellissima, eravamo innamorati, la adoperano come passepartout. E che cosa entra in questa porta aperta sull'Italia? Beh, ascolta. E maintenant che vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Sono Gilbert Bécaud, poi c'è Charles Aznavour e poi c'è l'Elvis francese che è Johnny Hallyday. E l'ultima era Catherine Spack, che è francese, nata in Francia, però naturalizzata italiana. Insomma, hai capito, Carla Bruni, la ex prima donna, sì, da chi ha copiato quando ha deciso di insistere sulla sua carriera di cantautrice? Cioè, prendeva copiato da lei? Eh beh, insomma, come punto di riferimento non è male, eh? Beh, comunque è già stato fatto tutto praticamente, sto capendo che c'è nulla di nuovo al mondo. Conosciuto tutti, è il clacson del sorpasso di Dino Risi. Ma tu lo sai, scusa Marina, che questo clacson è forse il clacson più famoso nella storia del cinema interplanetario? Sì, esatto, ancora oggi a Napoli si usa questo. Vabbè, una magistrale interpretazione di Vittorio Gassman. Nello stesso anno muore Marilyn Monroe, questa diva che ha fatto sognare tutto il mondo. Non si sa se omicidio, suicidio, per depressione, per overdose di barbiturici, e muore a soli 36 anni. Ma proprio lei era stata ritratta da un certo Andy Warhol. Ed è arrivato Andy Warhol. Esatto, che esplode nel mondo, nel panorama dell'arte nel 1962. A Milano due sorelle bellissime, anticonformiste, iniziano a disegnare un fumetto trasgressivo che rompe gli schemi, è Diabolik, nasce Diabolik. Ma tu lo sai che se tu avessi oggi una copia di quel 1962 originale ti potresti comprare, non so, un appartamento di tre camere e cucina qui a Roma? Proprio a Roma nasce il centro di produzione Dino De Laurentiis, detto da tutti Dino Città. È un centro modernissimo, a ciclo completo. E poi esce Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Ma soprattutto vinciamo un Oscar. The winner is Sophia Loren. Grandissima interpretazione di Sophia Loren nella Ciociara di De Sica. Nasce il nuovo mensile Panorama, nato dalla collaborazione tra Time Life e Mondadori, che cambia completamente e rivoluziona il modo di fare news magazine. Ma in sintesi, Franco, che anno è il 1962 dal punto di vista della musica? Allora, 1962, Sanremo non funziona più. Si vendono pochi dischi. I dischi chi li vende? Li vendono quelli che lavorano d'estate, perché ormai Sanremo ha perso completamente contatto con la realtà. Anche perché alle nostre frontiere stanno arrivando i barbari. Mm. love me do. I mitici Beatles. Sì, è cominciata l'invasione, prepariamoci, Quindi questo è quello che ci aspetta l'anno prossimo. Assolutamente sì, preparati. Ma le melodie sdolcinate, quelle ce le siamo un po' levate. Sì, ce la siamo. Guarda, ormai, come dicevo prima, sono in bianco e nero. C'è qualcosa di nuovo che sta arrivando e lo vedremo nelle prossime puntate. Ma per chiudere quest'anno, c'è una chicca, una cosa più sofisticata? No, c'è una chicca, però guarda, te la do dopo la viabilità. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Musica e storia negli anni 60 e 70. Johnny Boy, take it slow. Don't you know? Don't you know? She may kiss you like Ivy. She may hold you. Su Mix 24 Estate. Ma allora Franco, questa è la chicca che mi volevi far sentire. Chi è? Guarda, è una cosa incredibile perché questo pezzo originale si chiama La danza delle ore. È stato scritto nel 1876 da un autore italiano che si chiama Amilcare Ponchielli. Sì, lui... ma chi la canta qui? Ah, qui la canta Nancy Sinatra. E come è arrivata? Come è arrivata? Allora, lei si chiama di cognome, come si chiama? Sinatra. Allora, sì, una si chiama Sinatra e va in una casa discografica e gli dice: scusate, io vorrei fare un disco, ma se me nel dubbio, guarda, una Sinatra, un disco glielo farei fare, che dice così a occhi e croce, alla faccia dei figli di, dice, è così, guarda, è così, un sano, come si dice, nepotismo, sì. Va bene, comunque hanno fatto bene perché poi questo pezzo è venduto. Comunque, ti dicevo, Ponchieri lo ha fatto perché poi ha fatto parte di una sua opera famosa che si chiama La Gioconda. Questo era un balletto famoso di 6-7 minuti all'interno di questa opera. Però pensa che Disney nel 1940 prende questo pezzo di Ponchielli e inaspettatamente lo mette come sottofondo in un balletto suo di cartoni animati, che poi è diventato un classico mondiale, che è appunto Fantasia. Ecco, quando io sento questo pezzo, io non penso a Nancy Sinatra, io penso a questo bellissimo cartone animato di Walt Disney, no? Sì, sì, la riconosco anche io, questa. E per chiudere quest'anno, questo 1962, ci sono ancora due cose importantissime. Muore Enrico Mattei, il fondatore dell'ENI, l'uomo che ha contribuito più di tutti allo sviluppo energetico del nostro paese. In un incidente aereo vicino Pavia, un incidente, quindi si è accertato... È come Marilyn Monroe, non si sa se è un incidente... No, in realtà si è accertato che c'è stato il sabotaggio, no. Ma sui mandanti, dei mandanti non c'è traccia, non si sa. Solo per darti qualche cifra... L'ENI nel 1962 ha circa 56.000 dipendenti e nello stesso anno, proprio alla fine dell'anno, in punta come si direbbe, sempre Amintore Fanfani porta a casa la legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica. Nasce di fatto l'Enel, questa grande azienda che deve portare energia elettrica in tutto il paese ad un costo relativamente basso, come se oggi l'Enel facesse la banda ultralarga. La butto così. È vero. Diciamo così. Vabbè, come chiudiamo? Guarda, il 1962, abbiamo detto, è l'anno di Adriano Celentano, quindi io chiuderei con lui. Hai qualche suggerimento in proposito? Sì, voglio chiudere io con una chicca questa volta. Ah, l'hai trovata tu questa volta la chicca. Esatto, bene. Io per qual è? Una canzone dei tuoi anni che diventa dei miei, è Celentano, cantato da Vinicio Capossela, che ha fatto suo uno dei pezzi più forti di questo 62. E come si intitola? Si è spento il sole. Beh, ciao a tutti, ci vediamo domani col 63, vero? A domani con Mix 24 Estate. Si è spento il sole nel mio cuore, perché non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. Nel silenzio di tanti ricordi, forse l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più